So bene che della Colombia qui nessuno ne sa niente, ma nel caso in cui dovessi raccontarti qualcosa, inizierei dal fatto che ormai gli stessi colombiani sanno ben poco di se stessi e di tutto quello che gli si manifesta intorno. Dopo 52 anni di conflitto armato, lo scorso 2 ottobre la popolazione colombiana ha perso l'opportunità di fare un patto di pace con la guerriglia delle FARC. Questo è il risultato dell'alienazione indotta dalla ultradestra fascista colombiana rappresentata dall'ex presidente Álvaro Uribe Vélez, che con menzogne mediatiche ha ingannato l'intero popolo piegandolo alla paura. Ironia della sorte, il nuovo presidente colombiano Juan Manuel Santos, 2 giorni dopo il referendum, ha vinto il Nobel per la pace, mentre il popolo ha consegnato il potere a chi invece ha altri progetti per i suoi devoti. Sicuro che siamo arrivati.